di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Attenzione, perché oggi parleremo anche di scrittura, ma questo dalle 9. Intanto buongiorno, 8:14 su Radio 24 e ci siamo svegliati questa mattina con un video shock. James Foley, 40 anni, reporter, era scomparso in Siria e è riapparso questa mattina in questo video della BBC in cui il mondo ha assistito alla sua decapitazione. Lo ha reso noto la BBC perché aveva rilasciato un'intervista proprio al canale inglese, pur essendo americano, raccontando prima di partire per l'ultima missione che vanno sempre ricordati i reporter, i fotoreporter che hanno dato la vita per documentare le sofferenze. E proprio poco fa è arrivato su Facebook la dichiarazione della mamma di James Foley, mentre la Casa Bianca ancora non conferma si tratti di lui. La mamma ha scritto: sono fiera di mio figlio perché è morto per documentare le sofferenze delle persone. E dunque la crisi di Gaza, altro tema, l'ascesa dei militanti dell'ISIS che stiamo osservando in questi giorni, questo video, la Siria, l'Ucraina. C'è un istituto a Sydney che si occupa proprio di misurare in maniera oggettiva qual è lo stato di conflitto e di pace di tutto il mondo, e conferma purtroppo anche la ricerca di questo istituto, quella conclusa nel 2014, dunque la più recente, come questa sensazione che ha l'individuo di incremento di guerre e di conflitti non sia solo una sensazione. Si era registrata non una pacificazione, ma una sorta di decremento delle guerre dalla fine del secondo conflitto mondiale. Ora il trend è inverso, dal 2007 a oggi, ed è molto interessante questo indice perché misura lo stato di pace di ogni paese, quindi anche la conflittualità interna, cioè i problemi che possono portare a dimostrazioni o manifestazioni o scontri. Prendiamo la Svizzera, per esempio, non è coinvolta in conflitti esterni, però in questa pagella scende, scade in questo report in qualche modo per l'export di armi. E la direttrice di questo think tank che ha stilato questo report sarà nostro ospite dalle 8:30, complice un fuso orario favorevole con l'altro emisfero. L'impatto economico, per esempio, del contenimento della violenza intesa come guerra esterna e all'interno dei propri confini, pensate, coincide con l'11,3% del PIL globale. Cioè, se noi mettessimo insieme il reddito sommato di Italia, di Francia e di Germania, otterremmo questa cifra. Rispetto all'anno scorso c'è un peggioramento, una spesa superiore di 179 miliardi di dollari. Tutti i temi che affronteremo dalle 8:30. E ancora parleremo di scrittura. In che senso? Scrivere a mano è importante? Si può abbandonare la scrittura come abbiamo abbandonato per esempio il fax? Perché no? È solo uno strumento? Se noi dovessimo dar retta a quello che succede per esempio nelle scuole statunitensi, nelle scuole pubbliche americane la scrittura è stata pressoché eliminata. Prima di tutto già si scriveva in stampatello e non in corsivo. Ma questo è un male per le menti dei bambini, visto che copiamo tutto dagli Stati Uniti, dalla musica al trend, al vivere, alle sanzioni contro Putin, ci si può aspettare che da qui a breve la scrittura potrebbe essere eliminata anche nelle nostre scuole. Basta digitare oppure basta toccare lo schermo. Questo dicono negli Stati Uniti gli insegnanti. Attenzione però, perché questa volta si sono alzati gli scienziati, cioè gli addetti alle scienze neurali, e hanno dichiarato: la grafia, quella fatta a mano, non è solo uno strumento, non è come il fax e non può essere sostituita dall'efficienza che si può acquisire nell'uso della tastiera. perché, e di questo parleremo nel corso di Spunti di Vista dopo le 9. Scrivete a mano? Avete la sensazione, quando scrivete a mano, di ricordare di più? Per esempio, studenti giovanissimi nati nell'era digitale e che utilizzano tastiera e schermi con un'abilità da pianisti sostengono che quando si trovano all'università a prendere appunti preferiscono scrivere. Perché? Perché questo fissa i concetti meglio nella memoria. È una battaglia oscurantista quella per la difesa della scrittura. Voi come la pensate? 800 24 00 24 oppure via sms 349 238 6666. Noi ora andiamo a incontrare quelli che raccontano l'Italia nel mondo. Visti da fuori. E buongiorno, buongiorno alla corrispondente oggi da un altro continente, dal Brasile, Fernanda Massarotto, benvenuta. Buongiorno, grazie. Fernanda Massarotto scrive per O Globo e poi ha un blog seguitissimo. Vuoi ricordarci di che si tratta? Il blog parla di moda, parla di design, ma parla anche un po', racconta un po' la cronaca italiana, le cose che succedono qua, che poi tutto sommato è molto interessante per il pubblico brasiliano. Non so, se capita, io alcuni giorni fa ho fatto una news su i cani bagnini, quindi che per noi è una cosa mai vista, quindi sono questi spunti un po' particolari che ovviamente attraggono il pubblico brasiliano. Sul profilo Twitter hai happy most of the time, è una dichiarazione impegnativa, è interessante. Guarda, io sono sempre molto, sono felice, ti dico sempre, c'ho questo spirito molto sudamericano, cioè mi alzo bene, l'unico problema è che da novembre a febbraio c'ho un po' un callo, giustamente perché qua arriva l'inverno, poca luce, quindi io sono, cioè condivido la teoria che per un sudamericano la luce è importantissima e l'inverno non esiste, quindi per quello dico sempre, io scherzo sempre che sono happy mostly of the time, quindi per alcuni mesi sono un po' meno happy. Natale al caldo, insomma, ti manca. Mi manca tanto. Fernanda, da quanti anni sei in Italia? Guarda, adesso sono 10 anni, ma io la mia prima volta, il mio debutto in Italia è stato ottobre del 1993, che posso dire ha cambiato anche la mia vita, perché io sono arrivata per fare uno stage al Corriere della Sera, alla redazione esteri, quello mi ha cambiato la vita, ho capito cos'era un giornale, come si scriveva, come si faceva un titolo, anche se in italiano, quindi lì la mia carriera è cambiata completamente, lì sono diventata veramente giornalista. E chi c'era con te al Corriere nella redazione esteri? Nella redazione esteri c'era Barbara Stefanelli, che oggi è vice direttore del Corriere della Sera, Sara Gandolfi, che ancora è al Corriere, Guido Santevecchi, corrispondente da Pechino, Guido Linchio, Andrea Nicastro, quindi grandissimi giornalisti che sono stati grandissimi maestri anche. E poi tu, la tua vita si è dipanata non solo in Italia, hai fatto altri master all'estero e hai deciso di tornare qui dalla Gran Bretagna, per esempio. Perché? Vabbè, era un momento di vacanze, avevo finito il master, vengo in Italia per rivedere gli amici, arriva Ronaldo all'Inter all'epoca, sì. E quindi ho iniziato a fare dei pezzi, il Globo mi ha chiamato vedendo i miei pezzi per all'epoca un altro giornale e lì ho iniziato e ho fatto, poi alla fine ho fatto un po' di tutto, moda, turismo, molto poco di politica e economia, quindi... Però lì è stato ovviamente, cioè lì sono diventata corrispondente. Perché ti chiedono pochi articoli sulla politica italiana e sull'economia? Cosa rappresenta l'Italia per i brasiliani? Guarda, ci sono due teorie. La prima ovviamente che come siamo nel continente americano, ovviamente le notizie, cioè in America Latina, ovviamente sono un po' più importanti, anche oggi la Cina per i BRICS. La seconda cosa è che, a mio avviso, io devo dire la verità, quando c'era Berlusconi si scriveva molto di più, ma non per, cioè, per essere un grandissimo politico, ma per le sue gaffe. Quindi io direi che oggi l'Italia ancora attira molto, soprattutto direi in Brasile, per la moda, per il design, per il calcio, per il turismo, Molto meno sull'economia e politica, ma forse anche perché siamo molto condizionati dall'America, quindi per noi l'America è un po' il nostro paradiso, sono le leggi, cioè più o meno che seguiamo, quindi c'è anche questo fattore. No? Cioè il benchmark lo fanno gli Stati Uniti e non certo l'Italia o i paesi europei? Esatto, ovviamente se ci sono le elezioni, se c'è una decisione NATO ovviamente viene riportata, però ovviamente da molti anni non ci sono i corrispondenti a Roma per fare la politica e economia, ci sono ovviamente... Per raccontare gli aspetti sociali e di costume. E tu che sei a tutti gli effetti una cittadina completamente immersa nella realtà italiana, che però porta diversi sguardi, perché è una formazione completamente internazionale e con questa predominanza naturalmente della brasilianità, com'è cambiata ai tuoi occhi negli ultimi anni la società italiana, anche nelle piccole cose della vita, per esempio la scuola, tu hai figli qui in Italia? Sì, la scuola per esempio per noi ovviamente a scuola si va o al mattino o al pomeriggio e ovviamente non ci sono 3 mesi di vacanze, ma 25 giorni d'inverno, che sarebbe il nostro luglio, e un mese e mezzo d'estate, quindi parte di dicembre e tutto gennaio. Quindi già un calendario me... scandito diversamente. Esatto, quindi questo per me è già, no, tenerlo 3 mesi a casa o viaggiando è già una cosa che ovviamente per un brasiliano è un po' diversa. Poi ovviamente la scuola qua inizia ad ottobre e finisce a giugno, da noi c'è l'anno solare, noi iniziamo la scuola a febbraio e finiamo a dicembre, quindi poi tutta questa cosa, si entra alle 8:30, si esce alle 4:30, sono, cioè, è tanto. Quindi sono cose che ovviamente io adesso, che mio figlio è la seconda, ho un po' digerito, però all'inizio per me era folle questa cosa di stare, cioè, tutte queste ore a scuola, di sapere che avrei avuto il bambino 3 mesi a casa. Quindi ovviamente cioè sono modi di vedere la scuola, anche di strutturarla. In maniera completamente diversa. Esatto. Fernanda, per quel che riguarda l'università invece, che tu hai frequentato sia in Brasile, poi hai fatto altri master, dove esattamente? Io ho fatto un postgrado, che sarebbe un corso di specializzazione, sì, a Barcellona in economia internazionale, e poi ho vinto una borsa di studio e sono andata a Bristol in Inghilterra a fare un master si chiamava Film and Documentary. Quindi sono due esperienze completamente diverse, uno di economia e l'altro un po' artistica. E quanto costa l'università in Brasile? Guarda, l'università, cioè questo è un aspetto molto interessante, noi abbiamo ovviamente l'università pubblica che è la migliore, è assolutamente, per entrare all'università pubblica in Brasile è molto difficile. Cioè deve migliore fare... rispetto al segmento privato, intendi? Esatto, ovviamente ci sono alcune università private che sono anche, cioè non è facilissimo entrare, però il costo è alto. La università pubblica, che tutto sommato è la migliore, per entrare è molto difficile, però cosa succede? Che riescono ovviamente a entrare all'università pubblica solo quelli che hanno fatto liceo privato o anche elementari e medie private, quindi diciamo che la scuola pubblica, elementari, medie e liceo è praticamente è molto scarsa in Brasile per parecchi problemi, parecchie ristrutturazioni, tutto quanto. Invece l'università è ancora, l'università di San Paolo, l'università federale, sono le università ancora che contano. Il Brasile tra i paesi del BRIC aveva galoppato decisamente, era un po' un punto di riferimento adesso al di là della Cina anche per investitori stranieri che sono arrivati in massa. Ultimamente c'è stato un diciamo un rallentamento della corsa, sempre invidiabile dalla prospettiva europea, se si pensa che il PIL del 2013 il Brasile ha registrato solo un incremento del 2,4% rispetto ai parametri italiani, e chiaramente qualcosa di relativamente così, un orizzonte da raggiungere. Nel primo trimestre 2014 anche un più 0,2% rispetto al trimestre precedente, quando, scrivono i giornali brasiliani, si era già fermato un più 0,4%. Noi però tra poco affronteremo un tema legato alla conflittualità interna, e in questo indice internazionale sul tasso di pace, diciamo così, di guerra, di conflittualità dei paesi, il Brasile perde molti punti per abbiamo ancora in mente quelle scene recentemente prima dei mondiali, per questi conflitti tra polizia e cittadini, dove si dovevano creare quelle infrastrutture legate all'ospitalità del mondiale. Ci sembra un paese quasi che corra su due linee parallele. No, questo è vero, io sono molto critica quando parliamo di politica e economia brasiliana. Prima, perché le manifestazioni secondo me sono valide, lì si andava veramente a protestare perché non abbiamo ospedali, la scuola ormai è finita, la scuola pubblica, e facciamo un mondiale. Bene, devo dire anche che i ragazzi che sono andati a manifestare lì sono tutti di classe media, gente che poteva dire non me ne frega niente, intanto cioè, c'è papà che mi paga l'università o c'è papà che mi paga le vacanze. Il problema del Brasile è che ovviamente oggi i prezzi sono assurdi, quindi un caffè costa intorno a 1,30 euro. Cioè, poi quelli che ovviamente stanno bene, cioè, hanno l'assicurazione privata, vanno alla scuola privata. Il problema è che quella fascia che ovviamente ha bisogno della scuola pubblica e dell'ospedale pubblico, cioè, è un po' apatica, non va veramente a protestare. Il problema è che il Brasile è una bolla che prima o poi esploderà, perché ovviamente cioè, non puoi avere una scuola, tra l'altro, privata che costa di più che una scuola privata italiana. Cioè, vai dal medico privato, ti costa di più che il medico privato qua, ma anche da mangiare, che dico, vabbè, uno che non manda il figlio a scuola privata, ma da mangiare, ovviamente le medicine, non abbiamo la mutua che ti dà il ticket. Quindi io sono molto scettica per quanto riguarda questa grande crescita brasiliana. Secondo me prima o poi esplode. Quando parliamo del mondiale, ovviamente il Brasile poi ha vinto 3 partite, abbiamo dimenticato tutto, intanto se il Brasile vince va tutto bene. Questo è il grande problema del popolo brasiliano, si dimentica tutto così in fretta. Grazie per questa fotografia finale sul tuo paese. Naturalmente hai la possibilità di osservare vivendo fuori, forse anche con più equidistanza che se fossi rimasta là. Ci vuoi salutare in portoghese? Sì, ma posso dire una frase giustamente per far capire il Brasile, detta dal grande Tom Jobim, che diceva che il Brasile non è para principiantes, quindi il Brasile non è per i beginners, quindi ovviamente se tu guardi da fuori dici che bel paese, se vai lì che bello, nel momento che vivi lì, che non sei più un beginner, inizia a capire bene cos'è quel paese. Il Brasile non è per i principianti, potrebbe essere lo slogan di tutti i paesi che voi corrispondenti stranieri osservate, perché l'impatto il primo anno è sempre decisamente, a volte diametralmente opposto a quello che si ricava da quel paese quando ci si vive a lungo. Intanto Fernanda, grazie, obrigada. Grazie a te, di grazie. Nada. Fernanda Massarotto, brasiliana, scrive per O Globo e oggi è stata la nostra ospite di Visti da Fuori. Io pretendo tutto per iscritto, questo ci scrive un insegnante che ci ha inviato un sms al 349-238-6666 sul tema che affronteremo dalle 9. Scrivere a mano è importante, ci chiederemo? Non tanto se dobbiamo dar retta agli insegnanti, e questo è significativo che già ce l'abbiano detto degli insegnanti italiani, perché non tanto se dobbiamo dar retta agli insegnanti statunitensi. La scrittura manuale nelle scuole pubbliche americane è stata pressoché eliminata, ma questo è un bene o un male per le menti dei bambini? Cioè digitare con la tastiera o toccare lo schermo quando si tratta di iPad per esempio o di cellulari touch è la stessa cosa, alla fine abbiamo preso gli appunti, sostiene qualcuno. Attenzione però, perché si attivano delle aree del cervello e un circuito neuronale completamente diverso quando si digita, quando si schiaccia un tasto o si tocca un tasto sul video, rispetto a quando si prende in mano letteralmente una penna. Certo, non torniamo al calamaio o alla stilografica, ma la penna non tramonterà, questo sembra emergere dalle critiche degli scienziati italiani ed europee. Prendo appunti a mano e uso grafie diverse in funzione del concetto più o meno importante. Per me è importante perfino sottolineare, ci scrive Massimo. 349-238-6666. Questo è il tema che affronteremo e vogliamo sapere naturalmente non solo qual è la vostra preferenza, qual è la vostra esperienza, ma cosa vi augurate accada in futuro. Scrittura che va eliminata perché, come il fax appartiene al passato, anche se ci sottolinea qualcuno, almeno appartenesse al passato. Provi che perfino con la Telecom qui in Italia non sono accettate le email, ci scrive un ascoltatore, e bisogna comunicare via fax. E per partecipare alla trasmissione cominciate a prenotare le telefonate 800 24 00 24. Questo per quel che riguarda la scrittura. Ora apriamo una pagina completamente diversa che ci porta in Australia, dove ci aspetta Camilla Schippa. Dottoressa Schippa, buongiorno e benvenuta. Pronto? Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Camilla Schippa, italo-svedese tra l'altro, è direttrice del Institute for Economics and Peace. Noi siamo molto contenti di questa di questo suo cosmopolitismo, perché possiamo parlare con lei in italiano. Abbiamo preso in esame questa mattina l'indice importantissimo che voi pubblicate ogni anno. Sembra che emerga, dando un'occhiata allo scacchiere mondiale, che siano solo 11 i paesi senza guerra. È un indice decisamente sconfortante. Devo chiederle quali sono i parametri a grandi linee. So che ci sono algoritmi, chiaro, molto tecnici, molto scientifici per le rilevazioni, non entreremo in questi tecnicismi, ma in linea di massima cosa avete preso in considerazione per tracciare questa classifica mondiale della guerra e della pace? Sì, certamente. Innanzitutto è importante sottolineare come definiamo la pace prima di misurarla, perché la pace può avere un termine che ha molte definizioni diverse. Quindi è stata definita come assenza di violenza ed assenza della paura della violenza. Questa definizione ci permette infatti di poi misurare i livelli di pace sia interni che esterni ai paesi, cioè l'impatto che un paese può avere anche nei confronti dei livelli di pace di altri paesi. Gli indicatori che sono presi in considerazione sono 22, che possono essere raggruppati in tre categorie. Quindi abbiamo 5 che sono proprio misure di conflitto. Ad esempio il numero di conflitti combattuti, il numero di morti causati da un conflitto organizzato sia interno che esterno, i rapporti che il paese ha con i paesi confinanti. 10 invece sono misure di sicurezza della società interni al paese, ad esempio l'impatto del terrorismo, il numero degli omicidi per capita, il numero di poliziotti, ma anche il numero di detenuti per 100.000 abitanti, la percentuale di rifugiati, la facilità di accesso alle armi, il tasso di criminalità, ma anche il livello di criminalità percepito dai cittadini, quindi molti elementi interni alla società. E infine la terza categoria, 7 misure di militarizzazione del paese, le spese militari, il numero del personale militare, i livelli di import e anche di export di armi pesanti, la presenza di armi nucleari, il numero totale di armi possedute da un paese e così via. E tra poco arriveremo anche all'Italia, naturalmente, per vedere come si piazza in questa classifica. Tra l'altro, all'interno di questo istituto è stato misurato anche l'impatto economico del contenimento della violenza, perché parliamo di violenza declinata in diversi aspetti. Uno è la guerra, altri sono i conflitti interni. E si è scoperto che l'11,3% del PIL globale è dedicato proprio a questo. Pensate quante cose si potrebbero fare con questi 9,8 trilioni, cioè 9.800 miliardi di dollari. Questo è l'impatto economico della necessità di fronteggiare la violenza e le sue conseguenze. Quindi non solo lo stanziamento di eserciti all'estero, ma anche le spese militari ordinarie, cioè il mantenimento, per esempio, di un esercito in tempo di pace. Devo chiederle, Camilla Schippa, chi si trova in testa a questa classifica? È in testa alla classifica come percentuale del PIL, c'è la Corea del Nord. Un paese che ha poco a che fare con i conflitti esterni, ma è che evidentemente vive in uno stato particolare. Esattamente, uno stato così per dire per guerra, di controllo interno, con grandissimo investimento in quella che è l'industria della violenza. L'importanza di questo studio, sviluppare questa nuova metodologia per noi, era proprio di cercare di dare una misura come l'industria medica, ad esempio, a questa industria della violenza, semplicemente per poterla capire. Questi 9,8 trilioni di dollari è una cifra enorme, però corrisponde circa 1.350 dollari all'anno a testa per ogni cittadino del mondo. E noi non è che diciamo che questi soldi non si possano non spendere per niente. Abbiamo bisogno di polizia, abbiamo bisogno di carceri, ma la nostra tesi è che queste spese, questi investimenti sono poco produttivi. Quindi, una volta che vengono quantificati e si analizzano con più cautela, se si possano diminuire anche minimamente e questi soldi risparmiati, investiti in altre attività che sono più produttive, ma che possono anche essere le attività che supportano la pace, come ad esempio le scuole. Questo non solo aiuterebbe a ridurre la violenza, ma aiuterebbe anche l'economia del paese, quindi in un certo senso metterebbe in circolo un circolo che aiuta proprio sia l'economia sia il benessere del paese. Sia la convivenza civile, è ovvio che l'attrattività. Quindi alla fine è una misurazione economica. Da quanti anni svolgete questa rilevazione? Allora, abbiamo cominciato nel 2007, non lo facciamo da soli, l'indice è prodotto dall'Institute for Economics and Peace, ma per garantire l'indipendenza è guidato da un panel di esperti internazionali che sono dei leader sia in statistica e in studi della pace. Il panel ha deciso sia i 22 indicatori sia il peso relativo che è assegnato a ciascuno di essi. Ma qual è il trend osservato negli ultimi anni? Il trend osservato è preoccupante, cioè dal 2008 i livelli mondiali di pace sono diminuiti del 5%. Inoltre c'è un divario crescente, il che significa che non c'è solo una crescita nella diseguaglianza economica del mondo, ma anche in quella pacifica. Cioè gli 11 paesi meno pacifici del mondo continuano a diventare sempre più violenti. Ce li può citare? Sì, come no. La Siria, che era in fondo all'indice quest'anno, ad esempio, è molto meno pacifica di quanto non fosse l'Iraq nel 2008, quando era in fondo all'indice. Quindi si stanno staccando questi 11 paesi. Cominciando dal fondo c'è Siria, Afghanistan, Sudan del Sud, Iraq, Somalia, Sudan, Repubblica Africana Centrale, Repubblica Democratica del Congo, Pakistan, Corea del Nord e Russia. E come detto, tra poco arriveremo anche ad analizzare la differenza tra lo stato di una nazione e la percezione di insicurezza e di violenza dei cittadini all'interno di quella nazione, perché l'Italia in questo ha segnato un punteggio particolare. Prima però voglio ringraziare per il suo tempo il presidente dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, Fausto Pocar. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Lei, oltre a essere stato professore di diritto internazionale e membro del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha ricoperto anche l'incarico di presidente e di giudice per il Tribunale Internazionale per i Crimini nella ex Jugoslavia. È stato presidente di questo Tribunale Internazionale per anni. Ora, ha sentito come il trend sia preoccupante secondo questo indice. Dal suo osservatorio, si stava meglio in periodi o in anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, durante la Guerra Fredda? Ma è difficile dire, naturalmente. È chiaro che immediatamente dopo la guerra si aprono situazioni di ricostruzione che sono contrarie ai conflitti in linea di principio, e certamente l'ordine mondiale durante la guerra fredda non invitava grossi conflitti, perché il blocco tra le due grandi potenze impediva in fondo agli altri che si rapportavano all'una o all'altra di intervenire, di fare grosse guerre, e le due grandi potenze non potevano farlo. Questo non significa che sotto la cenere non covassero poi una serie di situazioni, come si è visto con la caduta del muro di Berlino. Quando questo ordine mondiale è caduto in qualche modo, i conflitti sono riapparsi immediatamente. Insomma, basta pensare al sanguinoso conflitto della Jugoslavia, della ex Jugoslavia, a Ruanda, a tutta una serie di altre situazioni, che l'Iraq stesso. Quindi attenzione a sostenere funzionava meglio la deterrenza nucleare, insomma. Ma torniamo tra pochissimo insieme a lei e insieme a Camilla Schipa. Dobbiamo andare a controllare la situazione del traffico sulle strade d'Italia. E dunque con noi la direttrice di questo think tank, l'Istituto per le Economie e la Pace, che ha stilato la classifica degli stati più o meno pacifici del mondo. In questo momento pochissime nazioni sono del tutto prive di conflitti. Uno studio che poi è stato ripreso dalla stampa internazionale, da Independent, in Italia da Repubblica, e che riserva alcune sorprese. Ci chiedono anche i nostri ascoltatori quali siano le eccezioni positive. E vediamo che l'Italia non rientra tra le eccezioni positive, ma non si piazza male. Parliamo del Costa Rica invece, professor Pocar. La Costa Rica è un paese relativamente tranquillo, è un paese molto piccolo, è un paese che ha fatto molto nell'ambito dei diritti umani, risiede a San José in Costa Rica la Commissione Interamericana dei diritti umani. Ma soprattutto ha preso una decisione che nessun altro Stato al mondo ha preso. Di demilitarizzarsi in qualche modo, quindi non ha un esercito, ha una polizia naturalmente, ma non ha un esercito. Può darsi che questo sia dovuto a situazioni contingenti locali che non hanno portato il paese a essere coinvolto in altre situazioni difficili. Dipende forse anche dalla popolazione della Costa Rica, che non è molto alta anche rispetto a altri paesi latinoamericani, ma certo è che sotto questo profilo La Costa Rica ha dato un esempio, diciamo così, di rinunciare alle spese militari, anche se credo che il conflitto interno, quindi nelle mani della polizia, non sia così neutrale, piccolo, ecco, così marginale, diciamo. Esatto. Camilla Schipa, quali sarebbero questi 11 paesi senza guerra, ed è corretto dire che siano 11 paesi veramente privi di conflitto, visto la complessità dei vostri indici? Sì, grazie. Allora, anzitutto volevo dire che sono d'accordo sul Costa Rica, in quanto sì, esternamente è un paese molto pacifico, ma internamente non tanto, in quanto nel nostro indice arriva al 42esimo posto. Riguardo agli 11 paesi senza guerra, in realtà l'articolo dell'Independent, che poi è stato quotato recentemente da altri stampa internazionale, ha scelto di evidenziare solo due dei parametri. Indicatori, dei parametri, esattamente, e in particolare quello che è stilato dall'Università di Uppsala in Svezia, che è un database di coinvolgimento di conflitti con una definizione molto specifica, che infatti va a vedere tutti i paesi che non siano stati involti negli ultimi 4 anni in un conflitto, dove il conflitto debba essere un'incompatibilità tra due parti, una delle due deve essere un governo e l'uso delle forze abbia causato almeno 25 morti in un anno. Ci sono 70 paesi al mondo che registrano 0 in questo indicatore, quindi sono più degli 11. Perché sono arrivati agli 11? Perché poi questo giornalista ha guardato un altro indicatore, che è il livello di conflitti interni, un indicatore qualitativo messo insieme dai ricercatori dell'Economist, l'Economist Intelligence Unit a Londra, che va a vedere quale sia la presenza di conflitto all'interno di un paese. Quindi combinando questi due gli risulta che solo 11 paesi sono liberi di conflitto. Non è quello che in realtà diciamo noi e come misuriamo la pace. Per noi la pace è veramente un fenomeno multidimensionale, servono più indicatori per capirlo e noi facciamo una classifica dove in prima non ci sono questi 11 paesi ma altri, il paese più pacifico al mondo, come no, cominciando dal top, Islanda, Danimarca, Austria, Nuova Zelanda, Svizzera, Finlandia, Canada, Giappone, Belgio e Norvegia. Questi sono i top 10, interessante vedere che 7 sono paesi europei, per lo più scandinavi, paesi alpini, piccoli paesi, democrazie per lo più, anzi in questo caso tutte democrazie. E quando si parla dell'Italia, siamo al 34esimo posto, visto che ce lo chiedono i nostri ascoltatori, al 349-238-6666, con uno score medio di 1,675, quindi abbiamo un punteggio più basso alle voci conflitti interni, militarizzazione e anche stabilità politica abbastanza confortante. La situazione dell'Italia peggiora però in voci come sicurezza sociale e poi questo è il dato su cui riflettere, percezione della criminalità presso la popolazione. Cosa significa? In realtà è una misura proprio del livello di paura. Se lei ripensa a quella definizione di pace che avevo accennato all'inizio, cioè non solo quanto il paese sia in pace, ma quanto la popolazione si senta sicura ed in pace. Questo è un dato di nuovo dell'Economist, basato su survey data, quanto la popolazione in Italia si senta di non aver paura della criminalità. E in Italia questo livello è abbastanza alto. È interessante vedere come in realtà anche in Nuova Zelanda, che è uno dei paesi più pacifici al mondo, questa percezione invece è più non corrisponde al livello. Spesso questo può avere a che vedere anche con i mass media e quanto la violenza, quanto si parli della presenza di una violenza in un paese. Beh, poi ci sono anche altri indicatori che vanno per esempio dalla sensazione di avere una giustizia garantita quando si perseguono le vie della giustizia, i tempi infiniti per i pronunciamenti della giustizia in Italia danno questa sensazione di scollamento del paese rispetto a chi dovrebbe garantire che le cose e le regole siano osservate. Fausto Poccaro, c'è uno scollamento anche tra quello che l'Italia fa in termini di diritto umanitario, in termini di accoglienza dei rifugiati e quello che gli italiani percepiscono che facciamo, cioè la sensazione di invasione. Qual è la verità, voi che lavorate in questo ambito? Ma io credo che in questo certamente l'opinione pubblica può avere la sensazione di una invasione e certamente il modo in cui l'ingresso di persone avviene nel nostro paese e da altri paesi dà questa sensazione, però in termini di dimensione del fenomeno siamo ben lontani dalle dimensioni di altri paesi. Per esempio? Per esempio, se guardiamo i paesi del Medio Oriente, il tasso di rifugiati in questi paesi di persone che chiedono accoglienza raggiunge il 30-40% della popolazione, quindi in Italia sarebbero milioni e milioni e milioni, ben lontani. Cioè, pensando alla attuali. Giordania, facendo un esempio a caso, in Giordania qual è la popolazione e quanti? In Giordania più o meno la popolazione saranno 6-7 milioni di abitanti e su questo ci sono circa 4 milioni, inoltre ci sono circa 4 milioni di rifugiati dai paesi vicini, che sia dalla Siria o dall'Iraq o da altri paesi della zona. Ecco, quindi sono situazioni di emergenza ben più difficili di quella dell'Italia, il che non significa che in Italia il problema non vada affrontato e non vada affrontato in modo globale con l'appoggio e l'iniziativa anche dell'Unione Europea. E ora faccio una domanda che rivolgo a entrambi, comincio con l'Epocar. Oggi abbiamo preso in esame questa diffusione della guerra, della violenza, del conflitto, e secondo dei parametri rilevabili poi e algoritmi molto complessi ma sicuramente indipendenti, si è visto questo tasso di conflittualità crescente, mentre c'era stato un trend nel dopoguerra, un tentativo anche collettivo di allontanarsi dalla guerra dal 2007 ad oggi, anche in coincidenza con la crisi economica, non può essere un dato casuale, c'è invece una conflittualità sempre maggiore, un coinvolgimento in guerra sempre maggiore. Per far indietreggiare questo tasso di conflittualità, in che direzione dovrebbero i governi del mondo muoversi? A quali fattori fare attenzione? Io credo che un margine di conflitto è inevitabile, che questo conflitto poi deve diventare conflitto armato, quindi un conflitto che sfocia in una guerra, non è inevitabile, e quindi questo si potrebbe risolvere dando più attenzione ai problemi economico-sociali, dando più attenzione all'istruzione, investendo diversamente, in sostanza investendo in modo produttivo, come diceva anche la dottoressa Schipa, e non investendo soltanto in spese militari. Ma c'è anche un altro aspetto che mi preoccupa molto e che è stato sottolineato anche ieri dal Pontefice, cioè che la guerra, anche quando sfocia in conflitto armato, è una guerra che diventa sempre peggiore dal punto di vista della qualità, cioè non si osservano quelle regole del diritto internazionale, che sono regole ben stabilite sulla condotta dei conflitti armati, che non permette tutto. Ecco, noi, il nostro istituto cerca di un istituto creare, che si trova a Sanremo, tra l'altro, sì, di diritto internazionale potremmo definirlo, anche se in realtà è un istituto di diritto umanitario, e tra poco spiegheremo, quando lei dice non tutto è permesso in guerra, di cosa si tratta, e finanziato, a cui collaborano, alle attività, queste attività collaborano i governi di tutto il mondo, ed è pochissimo conosciuto in Italia. Ma ora diamo la linea al giornale radio per gli aggiornamenti. 800 24 00 24, il numero di telefono, cominciate a segnarvelo per partecipare alla trasmissione dopo questo GR. Di scrivere o meno a mano parleremo tra pochissimo. Sono le 9.07 e quindi noi ritorniamo con le conclusioni sul tonfo dell'Indice Mondiale della Pace. 10.000 miliardi in sintesi, questo è il costo del terrore, abbiamo detto 9.800 miliardi, è peggiorato nel 2014 per il settimo anno di fila il Global Peace Index. È curato da un Institute for Economics and Peace e la direttrice è con noi, nostra ospite oggi da Sydney. E praticamente, perché si fa questo indice? Un po' per orientare le scelte degli investitori, nel senso che, avete capito, è alla fine anche un indicatore economico internazionale. Pulizie ed eserciti impegnano l'11,3% del PIL di tutto il pianeta, come se mettessimo insieme i redditi di Italia, Francia e Germania, abbiamo detto, per semplificare, per dare un'idea, e chiaramente per aumentare la possibilità di convivenza civile accettabile. Con noi c'è Fausto Poccara, che ci ha anticipato, lui è presidente dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, che non tutto è lecito in guerra. Approfondiamo questo argomento. Non tutto è lecito in guerra, perché da molto tempo ormai, da due secoli fa, si è cominciato in sede internazionale ad elaborare tutta una serie di convenzioni internazionali. Parlo in particolare delle convenzioni, delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, dei protocolli addizionali a queste convenzioni del 77, in cui si dettano una serie di regole che devono essere rispettate anche in caso di conflitto armato, in particolare per quanto riguarda la protezione di coloro che non partecipano al conflitto, in particolare quindi dei civili. Ora, quello a cui assistiamo purtroppo è invece che i civili sono quelli che sopportano sempre di più le conseguenze dei conflitti, e cioè dovuto al svilupparsi di armi di distruzione di massa, di armi chimiche, di armi batteriologiche, che sono assolutamente vietate dal diritto internazionale. Tenete seminari agli eserciti, agli ufficiali degli eserciti? Noi, il nostro istituto, cerca di sensibilizzare governi e forze armate, quindi direttamente coloro che partecipano alle operazioni militari, a rispettare queste regole di diritto umanitario. Ovviamente la soluzione migliore sarebbe quella di non avere conflitti armati, ma se ci sono devono rispettare certe regole. Quindi facciamo ormai da più di 40 anni un'azione in questo senso, con l'appoggio di governi stranieri, quasi tutti che si collocano fra i primi 10 indicati. E c'è anche il Costa Rica, ho controllato sul vostro sito, tra coloro che partecipano alle vostre iniziative, quindi non è un caso. Da tutto il mondo abbiamo ufficiali che partecipano ai nostri seminari, ai nostri corsi, ai nostri dibattiti. Rimanga con noi, ora diamo la parola a Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Dica, da dove chiama innanzitutto? Sì, da Modena. Sì. Allora, volevo chiedere ai vostri esperti circa una statistica da cui risulterebbe che il rischio di conflitti, di guerre, è proporzionale al numero di giovani presenti in una determinata nazione. Di giovani? Ha detto giovani? Di giovani in una determinata nazione, del suo gruppo. Ma quindi l'Italia è sicuro, insomma. È un indicatore demografico. Dove l'ha letto lei questo? Veramente su una rivista di non grosso prestigio, però mi sembrava interessante questo, che noi creiamo di inseguire, combattere per inseguire l'ideale, e invece siamo spinti dagli ormoni. Cioè i giovani sarebbero inevitabilmente, biologicamente, dei guerrieri. E avviare conflitti e guerre. Grazie Leonardo, sottoponiamo naturalmente questa domanda. Camilla Schippa, ecco, questo indicatore demografico della gioventù, della popolazione, come possibilità di aumentare il conflitto interno e il conflitto fuori, le risulta attendibile dal punto di vista scientifico? Al corrente di questa teoria accademica, che in particolare sottolinea se c'è una grande percentuale di popolazione maschile giovane nel paese, il paese è più a rischio di conflitto e di guerra. I dati esistono, li abbiamo correlati verso il nostro indice negli anni, ma non abbiamo trovato un riscontro, quindi non è, perché parte del lavoro che noi facciamo, l'indice in realtà è solo quello che va nel rapporto e va nei notiziari in giro per il mondo e porta l'attenzione al lavoro che noi facciamo, ma quello che noi facciamo veramente lo facciamo per cercare di capire, grazie a tutti questi dati statistici che collezioniamo, quale sia la ricetta per aiutare la pace sostenibile nei paesi. Quindi ci interessa fare molte correlazioni con altri dataset, eccetera. E in questo caso no, non c'è nessuna correlazione con l'incidenza demografica, la presenza di giovani, l'età della popolazione. Grazie a Camilla Schippa, grazie a Fausto Poker. Noi adesso vogliamo proporvi in conclusione un monologo teatrale che forse dice più di tanti dati incrociati, ma che ricalca quanto ci hanno appena detto i nostri ospiti sul peso che i civili sopportano, le conseguenze terribili che sopportano negli armamenti e nei conflitti, nelle guerre che abbiamo preso in esame oggi, del terzo millennio. Sentiamo Lella Costa in questo monologo che si intitola appunto Stanca di guerra. Nella prima guerra mondiale le vittime sono state per il 5% civili, per il 95% militari. Si può tranquillamente sostenere che i civili sono morti incidentalmente. Nella seconda guerra mondiale le vittime sono state per il 48% civili, per il 52% militari. Non si può già più sostenere che i civili sono morti incidentalmente. Nelle guerre contemporanee, che sono tante, le vittime sono per il 10% militari, per il 90% civili. Si può tranquillamente sostenere che i militari muoiono incidentalmente. D'altra parte, sai com'è? A furia di sentirsi ripetere prima le donne e i bambini, si vede che l'hanno presa la lettera. E quello che io mi chiedo è: chissà che faccia fanno, che faccia faranno quando indossano le loro scintillanti divise, qualunque sia il paese che quella divisa rappresenta, salgono a bordo dei loro scintillanti aeroplani o elicotteri e si librano in volo nel cielo limpido e azzurro. Dopo un po' che volano, che sconfinata sensazione di libertà, le carlinghe dei loro aerei si aprono e lasciano cadere dei curiosi oggetti metallici che cadono in caduta libera per alcune decine di metri, e poi si aprono a loro volta per lasciare cadere dei curiosi fiori metallici che imitano in modo encomiabile le pietre, i sassi, i ciottoli dei fiumi, e questi oggetti vanno a posarsi un po' qua, un po' là, e chi può sapere, chi può dire dove esattamente andranno a nascondersi? Resteranno lì tutto il tempo che è necessario, dureranno fino al giorno in cui qualcuno le troverà, e qualcuno di questi strani oggetti li fanno proprio a forma di giocattolo per essere del tutto sicuri che prima o poi, un giorno o l'altro, un bambino lo noterà, lo raccoglierà, lo guarderà. Per quanti secondi? 3? 5? 10? Gli ultimi istanti della sua vita, o forse no. Forse saranno l'inizio di un'altra vita, una vita di seconda scelta, una vita avariata, una vita scaduta, una vita senza gli occhi, senza le braccia, senza le gambe. Forse sei molto fortunato, forse. Quel bambino incontrerà un chirurgo bravissimo che viene dall'altra parte del mondo, e forse per espiare qualcuna delle colpe di quel mondo ha deciso di andarsene in giro a ricucire pezzi di bambini. E una volta ci ha portato anche la sua di bambina, sua figlia, che gli chiedeva sempre: papà, perché non ci sei mai? Papà, ma che cos'è il tuo lavoro? Lui l'ha presa per mano, l'ha portata in un ospedale in capo al mondo, senza né l'acqua né la luce elettrica, dove i bambini non piangevano nemmeno, e lei ha guardato e ha capito. Ha capito che forse è difficile sconfiggere questa bestia arcana e misteriosa che è la guerra, ma che ci sono alcuni modi di fare la guerra oggi che sono intollerabili, che questo modo di fare la guerra, le mine antiuomo, è il più vigliacco e ignobile strumento di genocidio della storia del mondo, il nostro mondo, questo mondo qua, quel mondo che è capace di seminare 10 milioni di casi, 10 milioni di mine antiuomo sul territorio di 3 milioni di persone, esseri umani, per esempio curdi, quel mondo che poi in realtà non condanna mai nessuno. Chi la mina la progetta, chi la realizza, chi la produce, chi la vende, chi la compra, chi la sgancia. E io, da tutti questi signori, vorrei sapere una cosa sola, vorrei sapere come fanno a dormire. Come fanno a dormire? Scendere anche per loro la notte. Gli toccherà un pomeriggio, un tramonto, uno straccio di ora violetta che gli rovini l'aperitivo. Capiterà anche a loro il momento di chiudere gli occhi e dormire. E allora io voglio cercare di capire se Macbeth ha ucciso il sonno. E Macbeth era un poveraccio, un nomiluculo di provincia coinvolto in trame più grandi di lui. Macbeth non capiva, Macbeth aveva i dubbi e i terrori. Macbeth neanche avrebbe potuto immaginarlo, tutto questo, se Macbeth ha ucciso il sonno. Io voglio sapere da loro come fanno a dormire. E ancora buongiorno da Irene Zerbini, questa era Lella Costa, stanca di guerra, risaliva all'anno scorso, 2013, nel frattempo la situazione è andata peggiorando, ce l'ha raccontato questo indice. Vi ricordo tra l'altro che stanno cercando, nel caso vogliate fare un'esperienza all'estero, se andate sul sito troverete anche le indicazioni, stanno cercando stagisti e persone che lavorino in questo ambito di diritto internazionale per qualche mese, un'esperienza che può essere interessante. Ora noi cambiamo pagina completamente ed è una pagina che scriveremo a mano. Perché? Che differenza fa? Scrivere a mano è importante? Poi proprio noi che continuiamo a sollecitare sms al 349-238-6666, che utilizziamo la tastiera, che tocchiamo i nostri schermi, che differenza c'è? Alla fine il messaggio arriva. Qualcuno dice: se verrà eliminata completamente la scrittura dalle scuole, si perde davvero qualcosa o è oscurantismo difenderla? Dal punto di vista scientifico e anche dal punto di vista neuronale, si attivano le stesse aree del cervello quando scriviamo una frase schiacciando dei tasti, per esempio, o usando una penna? Lo vogliamo chiedere a un neurologo. Buongiorno al professor Piero Barbanti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è un primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, che nulla ha a che vedere col San Raffaele milanese, e immagino si sia sentito rivolgere questa domanda, perché si discute molto in questo periodo del fatto di eliminare dalla scuola la scrittura in corsivo, in stampatello, insomma con la penna, così che gli insegnanti abbiano anche la vita un po' agevolata, nel senso non debbano sempre decifrare dei geroglifici. È una richiesta neutrale dal punto di vista cerebrale? Non è assolutamente una richiesta neutrale. Noi possiamo fare scrivere stampatello, fare scrivere, una volta si diceva, a macchina, oggi al computer, per motivi di praticità, ma non pensiamo di ingannare il nostro cervello né di sfamare la nostra necessità di emozioni. In maniera molto semplice, se a lei arriva una lettera scritta, ecco, una lettera 22, quella che usava Montanelli, cara Irene e così via, o se la stessa lettera reca alcune parti scritte in corsivo e la firma ovviamente si immagina non digitale, lei risulta diversamente emozionata, quindi stiamo bene attenti. Cioè provoca più piacere, lei dice, ma in chi la riceve? Sì, certamente sì. E in chi la scrive? Intanto un attimo, chi la scrive ha diverse emozioni, diverse sensazioni. Lo scritto, diciamo, a computer, a macchina, è una maniera per informare. Lo scrivere a mano è una maniera per narrare. E nella narrazione c'è il dato, c'è il concetto, ma c'è la storia di chi sta scrivendo. E c'è anche la storia di quello che sta provando. Per esempio, l'ha scritto di corsa, si vede, ma mi ha detto quelle cose un po' così, ma si capisce dal suo tratto, forse era in treno, forse stavo uscendo di casa. È noto che mentre il soggetto scrive si attivano alcune aree, per esempio del piacere, ma mentre scrive a mano. Ma voi vi chiedete come mai uno dei regali più storici che continua a gratificare, io personalmente ne vado estremamente orgoglioso quando le ricevo, sono le penne, in particolare stilografiche, quelle che ti consentono di disegnare scrivendo, è un puro fatto di piacere ed è altamente conservato. D'altra parte il bambino appena ha una penna in mano si colora, ma non vede l'ora di iniziare a scrivere. E sono 7.000 anni che il cervello ha messo a posto anche un sistema per decriptare lo scritto, che è la lettura, e la lettura ovviamente del tratto grafico più semplice della nostra grafia, non necessariamente la lettura dello stampato. Appunto, professore, ci dicono alcuni, no? Mutuando l'esperienza di molte scuole, qua si dice statunitensi, ma nordamericane in generale, che hanno abolito de facto, anche per la diffusione maggiore degli iPad tra insegnanti ed allievi, hanno abolito la scrittura. Si dice, vabbè, basta che leggano, è la stessa cosa. La risposta la tenga per qualche minuto, perché vogliamo dar la parola a quelli che vogliono dire la loro su questo tema. La scrittura è evidentemente un patrimonio che appassiona. 800 24 00 24. Cominciamo da Trapani. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, dica. Pronto, io sono Egle. Salve Egle. Guardi, le voglio dire questo, che io naturalmente ho 65 anni, però mi sono voluta anche io adeguare alla scrittura digitale. Sì. È chiaro che le stesse emozioni che cioè non provo con le stesse emozioni così come quando scrivo. E poi c'è anche un'altra cosa, io rivedendo dopo tanti anni la mia scrittura dico, ma tu guarda, in quel periodo ero serena, in quel periodo ero più agitata. E un'altra cosa ancora, io adesso mi accorgo che invecchiando la mia grafia va assomigliando di più, sembra quella di mia madre, quindi non solo mi rivedo in lei nelle vecchie fotografie, ma anche nella scrittura, quindi il fatto emotivo è straordinario. Egle, lei ha dato un percorso veramente da perizia grafica della sua esistenza, molto interessante. Grazie alla nostra ascoltatrice di Trapani. Anna Rosa Pacini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei è una grafologa, è una pedagogista, è una giornalista, insomma di cose ne fa molte consulenze. Ha sentito, è difficile analizzare la grafia o la scrittura via radio, senza dubbio, però Egle le ha restituito alcune variabili. Dice che la sua scrittura è variata nel corso dell'esistenza, che assomiglia sempre più a quella della madre. È possibile una cosa del genere? È possibile nell'osservazione individuale, perché quello che colpisce il non esperto chiaramente è l'aspetto morfologico, e pensiamo che con l'età nella grafia ci sono dei segni che hanno a che fare ad esempio con il cambiamento del sistema muscolare, quindi le scritture si possono assottigliare. Sappiamo anche che l'invecchiamento cronologico non corrisponde a quello della scrittura, e quindi abbiamo persone che hanno 60, 70, 80 anni e delle scritture veramente giovani, come possiamo avere delle persone che da un punto di vista di età che appartengono a fasce precedenti, quindi più giovani, e invece hanno le strafie che portano dei segni di staticità. Questo perché la scrittura esprime quello che è la persona, quindi segue chiaramente anche lo sviluppo da un punto di vista fisico, psicologico, con tutti i processi che accompagnano la vita, ma soprattutto quello che si è. Allora, che cosa potremmo dire all'ascoltatrice? Che sì, è vero, la grafia cambia in alcune caratteristiche che spesso sono legate proprio allo stato d'animo. Infatti ho sentito dire questa mattina che la grafia esprime le emozioni, quindi se si è più agitati, più felici, più sereni, questo si vede, ma la struttura di base individuale, quella rimane sempre. Questo significa che una persona, ad esempio, con una forte volontà avrà una buona pressione nella scrittura, una capacità di mantenere il rigo, quindi una scrittura che procede dritta sul foglio, e un giorno in cui sarà di cattivo umore, magari cambiando un po' gli assi delle lettere, quindi la scrittura si inclinerà un pochino più da una parte, andrà un pochino più verso il basso, ma non perderà quella che è la sua energia, quella che è la sua caratteristica. La sua caratteristica unica come il DNA? Sì, unica come il DNA. Infatti non c'è una grafia uguale ad un'altra. Possono sembrare simili, ma non lo sono mai. Ci sono sempre degli elementi personali, della realtà ideativa, che hanno a che fare proprio con il processo idrocostruttivo, che riguardano il singolo e che rendono per questo la nostra scrittura una sorta di impronta anche, passatemi il termine, neurocerebrale, perché richiama l'intero sistema motorio, sebbene noi poi ci si occupi soprattutto il significato grafologico legato proprio al mondo emozionale, al temperamento, alle caratteristiche intellettive, eccetera, eccetera, eccetera. Dottoressa Pacini, quindi non basta saper leggere, quello è diverso dal punto di vista dell'espressività, del saper scrivere, ci sembra di capire da quanto lei ha detto, ma torneremo con lei tra poco. 800 24 00 24 per le voci degli ascoltatori. Siamo partiti da Trapani, andiamo a Biella. Buongiorno, pronto? Buongiorno, sono Stefano. Sì, dica Stefano. Sono marito di una professoressa, sento un ritorno in radio molto fastidioso. La spenga, non deve avere la radio accesa mentre parla al telefono. L'ho spenta già prima, comunque. Ah. Lei è marito di una professoressa? Sì, ogni tanto mi chiama mia moglie e mi chiede un consulto su cosa ha scritto gli allievi e rimaniamo interdetti. Perché? Ma perché lei è in grado di decifrare le grafie meglio di un insegnante? No, perché lei arriva a punti che non riesce appunto a decifrare, insomma, sì. Decifrare. Quindi secondo lei, Stefano, sarebbe meglio digitare? Cioè, se in teoria tutti fossero dotati di computer a scuola, sarebbe meglio percorrere quella strada? Sì, però poi non si ha sempre sotto mano un computer, bisogna saper scrivere bene. Io ho la cosiddetta calligrafia, scrivo bello elegante, vengo a volte chiamato a scrivere, bisogna saper scrivere bene, bisogna sforzarsi, è un'arte da sviluppare. E lei dove l'ha imparata? Scrivendo. Scrivendo, ma già da piccolo all'elementare, immagino, ci tenevano a che lei sviluppasse, sì, questo. Io amavo scrivere bene. Grazie Stefano. La grafia diversa dalla calligrafia, esamineremo anche questo aspetto. Intanto ci dicono, sì, si può ascoltare in podcast, ci chiedono se la trasmissione si può ascoltare dopo, qualcuno che deve correre fuori, si può ascoltare in podcast, punti di vista assolutamente sì, potete contattarci anche via email dopo la conclusione, spuntidivista@radio24.it. Giulio ci dice: sono anni che scrivo in stampatello e non riesco più a scrivere in corsivo. E quindi, professor Barbanti, è una capacità, abbiamo detto finora, che caratterizza un'impronta unica per ogni individuo, ma si può anche perdere questa capacità? Purtroppo Purtroppo sì, come neurologo devo dire che fare scrivere un paziente molte volte può essere premonitore interpretazione di malattie che sta covando. Pensiamo alla micrografia di chi ha il Parkinson, lo sta per manifestare, la calligrafia diventa più, sempre più piccola, o la macrografia invece di chi ha disturbi del cervelletto. Se mi è permesso dire una cosa relativamente a quanto ha detto Stefano Edegle prima, per un neurologo la scrittura vergata a mano è particolarmente affascinante perché attiva aree che sono piacere, memoria e riconoscimento. C'è un'area del lobo temporale che sta all'interno, nella parte più mesiale, come diciamo noi, del lobo temporale, che serve per riconoscere. Bene, questa area è un'area che si attiva quando riconosciamo il volto della mamma, del volto del figlio, ma anche una grafia. Pensate quanto è diremmo tutelata quasi filogeneticamente la grafia. E l'altro aspetto è quello emozionale. Quando noi leggiamo una cosa c'è un grande chiasso nel nostro emisfero sinistro, si sferraglia la immagine che è scritta, cioè ciò che vediamo scritto viene fotografato, smontato, interpretato, inviato per conoscenza al circuito delle emozioni. Se io leggo una cosa scritta con la Times New Roman 12, io non invio niente al circuito delle emozioni. E sai cosa fanno la maggior parte delle persone? Lei che come me vivrà di mail, si mettono i sorrisini, i due punti con la parentesi, cioè la necessità di inserire emozioni attraverso lo scritto. Quindi, per non evadere la sua domanda principale, nessuno vuole fare l'oscurantista, ma non si venga a dire che il cibo per gli astronauti è la stessa cosa di una mangiata con la penna alla matriciana, insostituibile. Ma c'è questo entusiasmo verso l'avvento, che nessuno ovviamente vuole negare, del digital e della diffusione, della capacità anche in bambini piccolissimi di digitare, di usare il keyboard, di usare la tastiera, di usare il touch, che ha portato in alcune scuole statunitensi, abbiamo detto, finora in Europa siamo lontani da questi non solo orizzonti, ma obiettivi proprio, nel senso che nessuno ha tracciato questo come un obiettivo finora, ha portato molti a sostenere, vabbè, basta che ci si capisca, è uno strumento più omogeneo, uniforme la scrittura fatta via tastiera, perché continuare a portare avanti l'altra, quella fatta a mano, quella manuale, definiamola così, quando ci siamo lasciati alle spalle anche il fax. Sì, bisogna dire una cosa, però adesso magari qualche ascoltatore potrà sobbalzare alla guida o dalla sedia. Incomincia a farsi però strada il concetto di demenza digitale, cioè le nostre funzioni cerebrali funzionano finché vengono stimolate. Noi avevamo un grande rinencefalo, parte del cervello deputata a decriptare gli odori, questo perché non sapendo quello che mangiavamo prima la nosavamo, adesso bene o male, a meno che non ci avvelenino come è successo in qualche caso in carcere, noi siamo sicuri di quello che facciamo. Ebbene, il rinencefalo si è ristretto, qua non deve essere la mia ovviamente una espressione oscurantista o tantomeno neuroterrorista, anzi i neuroterroristi sono un po' dappertutto, io non lo sono, però stiamo bene attenti perché l'essere manichei, tanto in un senso come nell'altro, e mi sembra che i peana fatti verso la scrittura digitale vadano in questo senso, rendono meno pronte alcune aree cerebrali. Stessa maniera per cioè, potremmo atrofizzarle, insomma, ci sta mettendo in guardia da neurologo, potremmo atrofizzarle e atrofizziamo la memoria, perché scrivere, noi quando prendiamo gli appunti a scuola, all'università, sui banchi, dove aiuta sia, a ricordare, aiuta a memorizzare. E questo sembra un po' quanto hanno nella loro esperienza tutti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Sono completamente immerso nella cultura, diciamo così, digitale, ma per prendere appunti e ricordare devo scrivere a mano. Raccontateci le vostre esperienze anche all'800-24-0024. Si può avere un piano gratis tutti i giorni? Sì! Con il nuovo concorso Costantin ogni giorno vinci un pieno, tutti i giorni una nuova occasione per vincere, e con il Costantin Club il premio raddoppia, due pieni in palio ogni giorno. Iscriviti subito nelle stazioni di servizio Costantin, ogni giorno il servizio è gratuito ed oggi anche il pieno. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Regolamento completo sul sito costantin.com. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Sono molto evocativi, molto belli i vostri SMS. Secondo me si perde molto la manualità. E poi come sono belli gli scritti autografi, ci segnala da Como l'ascoltatrice Maria Teresa. La scrittura, inteso come segno grafico, è il più ricco giacimento di significati inconsci dell'individuo, finora scoperto. Ci segnala qualcun altro che però non si firma. Nella scuola che io ho frequentato, questo scrive dall'Austria, grazie Nora, nella scuola tedesca che io ho frequentato a Roma era obbligatorio usare la stilografica proprio per educare ad esprimere i sentimenti scrivendo. E sentiamo invece cosa ci raccontano al telefono i nostri ascoltatori. Francesco, pronto, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Volevo fare una domanda al dottore. Dica. Io ho sofferto di depressione per qualche anno. Da quando ero bambino avevo un divertimento mio personale che era quello di scrivere anche i libri. Quando leggevo un libro poi io scrivevo le pagine del libro, ma era un mio divertimento personale che poi mi sono portato dietro per molti anni. Adesso dopo la depressione scrivo che, diciamo, faccio scarabocchi più che quando scrivo in corsivo e quindi sono costretto a scrivere quasi sempre in stampatello. Ecco, questo volevo sapere. Il stampatello le risulta molto più facile, ha quasi perso questa manualità sul corsivo. Lei vuole sapere se è recuperabile? Se è recuperabile, sì. Grazie. Sto migliorando anche come malattia. Grazie mille, grazie a Francesco, naturalmente in bocca al lupo per la sua malattia. E con noi c'è proprio una rieducatrice della scrittura che saluto. Buongiorno dottoressa Alessandra Venturelli. Buongiorno. Lei è presidente dell'associazione Onlus Graficamente, tanti gli stimoli, ma ci interessa proprio capire questo recupero della, ha sentito ora l'esperienza di questo ascoltatore, della grafia in corsivo, che ora risulta, dopo un percorso particolare, molto più difficoltoso. Bisogna pensare sempre di individualizzare il problema, quindi valutare caso per caso. Chiaro, chiaro, però certamente le possibilità di recupero sono maggiori, tanto più precocemente si interviene, quindi in età evolutiva. Tuttavia ci sono buone possibilità di recupero anche per adolescenti ed adulti. Basti pensare che nella maggior parte dei casi, anche secondo la mia esperienza, si tratta più che altro di mancati apprendimenti, più che di veri e propri disturbi. Quindi le difficoltà grafomotorie vanno un po' collocate in tutto un contesto che non è solo organico, ma ovviamente anche legato a un contesto ambientale, agli stimoli scolastici ricevuti. E in ogni caso, appunto... Ci può parlare in maniera meno tecnica, per cortesia? Cioè ci fa degli esempi pratici, per favore? Praticamente adesso le faccio un esempio pratico di un mio, di una persona che ho rieducato. Si tratta di un assistente universitario che in giurisprudenza non riusciva a sostenere l'esame di avvocatura pur avendo 24 anni proprio perché la sua scrittura era illeggibile. Quindi lui ha intrapreso con me un percorso di rieducazione affinché appunto potesse produrre una scrittura leggibile e nei tempi richiesti ovviamente dall'esame, e in effetti nell'arco di pochi mesi è riuscito a sostenere la prova. Questo è eccezionale, proprio... ma alcuni dicono in caso di soggetti disgrafici o dislessici, sono molti gli ascoltatori che ci chiedono anche in questo senso e tra poco apriremo quel capitolo, si usi la tastiera. Questa è la soluzione migliore. Lei cosa risponde, dottoressa? Intanto, come diceva appunto il collega, il professore neurologo, si tratta intanto di aree del cervello che vanno attivate precocemente se vogliamo avere una buona funzionalità. E quindi se noi abbandoniamo troppo precocemente l'insegnamento della scrittura a mano, evidentemente non sviluppiamo adeguatamente quelle aree del cervello. Quindi, ma la soluzione è la tastiera una volta fatta la diagnosi di disgrafia e dislessia? Allora, intanto bisognerebbe prevedere un percorso di prevenzione, cosa che non avviene assolutamente in Italia perché manca addirittura già nei programmi ministeriali un'attenzione per gli aspetti esecutivi della scrittura, questo già da 30 anni circa questa parte. Quindi bisognerebbe intanto prevedere percorsi di prevenzione e di formazione per gli insegnanti fin dalla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. E poi, una volta avuta questa diagnosi? fatta la diagnosi, bisognerebbe recuperare, cioè tentare una rieducazione individualizzata là dove ci sono ancora aspetti funzionali recuperabili. Poi solo allora si dovrebbe ricorrere a strategie dispensative compensative, che significa l'uso della tastiera, per esempio se un bambino resta piuttosto lento nelle prove, e quindi a quel punto in certi casi, in certe situazioni, può naturalmente ricorrere alla tastiera. Grazie, grazie mille alla dottoressa Alessandra Venturelli. Anna Rosa Pacini, lei che appunto esamina le grafie e le scritture proprio per lavoro, nel corso della sua esperienza, lavora in tribunali, tiene un blog, qual è la scoperta più grande che ha fatto di correlazione tra la personalità umana e come un individuo scrive? Beh, di scoperte ce ne sono tante che sono già state fatte prima. Diciamo che nell'esperienza ci sono cose che si possono verificare, che si possono sperimentare. Ho ascoltato con interesse le telefonate e anche i commenti degli interventi dei colleghi. Che cosa si può dire? Innanzitutto la scrittura è una forma di comunicazione. Spesso quelli che oggi vengono definiti di fotografie sono in realtà dei segnali di un disagio interiore. Per questo in una società in cui i bambini, i ragazzi hanno meno strumenti da un punto di vista emozionale per affrontare delle realtà che forse non sono adatte alla loro età, e quindi ci sarebbe un discorso molto ampio da fare, le scritture risentono di questo clima, di questo ambiente, che è un ambiente che coinvolge anche la famiglia. Pensiamo in che modo l'attuale crisi anche di valori si riverbera all'interno del nucleo familiare. Allora le scritture che si leggono, diceva quel signore che la moglie professoressa porta a casa tanti di questi esempi, ci dovrebbero allarmare, perché il numero di fotografie reali, cioè di problemi disortografici, di cattivo apprendimento, di bisogno di rieducazione del gesto grafomotorio, non sono, almeno nella mia esperienza, una maggioranza, ma nella maggior parte dei casi sono proprio dei segnali di un mondo emozionale che non trova il proprio equilibrio. Allora cosa ho scoperto? Ho scoperto che nel momento in cui si aiuta la persona a ritrovare il proprio equilibrio a qualunque età, quindi si può creare una scrittura laddove riusciamo a ritrovare in noi quell'energia, quella forza. Quel signore parlava proprio di un problema molto serio come quello della depressione. La sua scrittura ne ha risentito, infatti, certo, è stata lo specchio di questo percorso. E lei dice: quando poi si interviene sulle cause, cambia anche la scrittura. Cominciamo innanzitutto a ricomporre il suo numero di telefono, perché la linea è piuttosto difficoltosa. E ascoltiamo voi che avete telefonato all'800 24 00 24. Un insegnante da Pistoia, buongiorno, buongiorno, grazie per aver chiamato. Sento, buongiorno. Buongiorno Laura, dica. No, intanto premetto subito, io ho più problemi già di scrittura. No, anche lei Laura, purtroppo la dobbiamo bloccare, non riusciamo a sentirla. Ci dovete fornire un fisso a volte per chiamare, perché ci sono delle problematiche legate alla copertura di campo in agosto, l'abbiamo sentito anche dalle associazioni. Sono ormai oggetto di associazioni di consumatori che si stanno mobilitando, ma il servizio è piuttosto problematico. Andiamo a Modena, buongiorno Giuseppina, pronto? Buongiorno. Lei va meglio, lei va meglio dal punto di vista tecnico. Non so come scrive però. Io scrivo soprattutto con l'abiro. Sì. Uso le moderne tecnologie, scrivo le email, anche per rapporti di lavoro, immagino. Privato, di lavoro, non so. Ecco, però ritengo che la scrittura sia importantissima, perché come diceva il professore mostra le proprie emozioni. Ma lei si emoziona, diceva il professore, ci si emoziona più quando si riceve una lettera a mano, un pensiero, anche solo una firma, ci si emoziona di più di un SMS, è vero? Sì, tantissimo, soprattutto si riceve, ma anche quando si scrive, quando si firma anche, perché spesso si ricevono lettere o SMS non firmati, e questo è sbagliatissimo. Ma va, chissà di che fenomeno sconosciuto parla. Esatto. Ne riceviamo centinaia qui. A proposito, ricordo 349-238-6666, ringrazio Elena per il suo pensiero, si è firmata. Non c'è niente di più emozionante di ricevere una lettera. Ringrazio Paolo. La scrittura digitale, dice, sarebbe una pura follia. Meglio scrivere a mano per gli appunti, per questo ho comprato, dice Marco, un tablet con la penna. Abbiamo perso la nostra ascoltatrice, torniamo a Laura. Buongiorno Laura. Pronto, mi senti ora? Sì, abbiamo recuperato l'insegnante. Lei cosa insegna, okay, innanzitutto? Allora, no, niente, io insegno una materia tecnico-pratica che si chiama metodologie operative nei servizi sociali, sì, per cui non è una materia letteraria. Ma io tutti gli anni ai miei ragazzi, appena entrano a scuola, quelli delle prime sto parlando, faccio dei test d'ingresso. Test d'ingresso in genere sono tratti, non so, la lettura di un brano, di un libro e poi delle domande su questo brano, che vogliono scandagliare un po' non soltanto la comprensione, ma anche l'aspetto emozionale, emotivo. Insomma, e quindi li fa scrivere a mano? No, e qui lì invece no, erano semplicemente delle risposte già preordinate proprio per fare veloce anche poi a rielaborare, e quindi erano sempre delle risposte a crocette con delle domande già previste. Quest'anno non so perché, ma ieri l'altro ci ho pensato, ho detto no, non gli do lo stesso test, a parte non sono mai gli stessi, tutti gli anni cambio. Ho detto voglio proprio cambiare sistema, voglio fargli fare scrivere qualcosa a mano, perché sono convinta che anche la scrittura in qualche modo mi dà delle informazioni da un punto di vista emotivo, da un punto di vista di maturazione neurale, da un punto di vista di maturazione proprio della persona. È una presentazione, quindi, secondo lei. Ci dovrà chiamare, carissima insegnante, dopo aver somministrato questo test scritto a mano e vedere se questa sua intuizione si sarà rivelata vera. C'è anche chi ci scrive da una banca, grazie intanto a Laura che salutiamo, e dice che lavorava in una banca e controllava l'autenticità delle firme sugli assegni, che aspetto così sembra triste detto così, no? Invece ogni firma, ogni grafia, questo solerte sportellista lo rimandava al viso del cliente, aveva un'emozione per ciascuno, invece oggi è tutto digitale, non riesce ad avere lo stesso attaccamento al lavoro. Questo è un aspetto decisamente inedito. Mio figlio scrive malissimo, le maestre di oggi non insegnano a scrivere bene, ci segnala Giuseppe da Ravenna. Beh, si può spendere anche mezz'ora di sera, se lei lo ritiene importante, accanto a suo figlio, e vedere se magari lei riesce a compensare. Dio ci scampi dallo scellerato principio, l'importante è chi ci si capisca. Questo è il principio che portano avanti i sostenitori della scrittura esclusivamente digitale. Ci si capisce, è più omogenea, è più uniforme, ma è così, ci segnala un ascoltatore, che si uccide la ricchezza di una lingua. Ricchezza di una lingua legata anche al fatto che si scriva con la penna, una domanda che porremo naturalmente ai nostri esperti. E probabilmente servirebbero 1000 minuti per dar voce a tutto quello che il tema della scrittura a mano sta alimentando nei nostri ascoltatori. Tra l'altro è un fronte univoco, non c'è nessuno che difenda la scrittura digitale come unico mezzo da praticare e da utilizzare. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 9:48, professor Giacomo Stella, benvenuto. Pronto? E professore ordinario di neuropsicologia clinica dell'Università di Modena e Reggio Emilia ed è fondatore, questo è molto importante per tanti nostri ascoltatori, dell'Associazione Italiana Dislessia. In questo caso, professore, ci chiedono i genitori, soprattutto preoccupati per le diagnosi date ai figli e ai ragazzi, è meglio usare la tastiera? Pronto? Allora, sì, ci sono. Lei mi sente? Sì, adesso sì. Pronto? Sì. Allora, intanto io ho ascoltato una parte della trasmissione con attenzione, devo dire che si fa sempre confusione tra dislessia, disgrafia, disortografia, e sono problemi molto diversi. È inutile dire disgrafia e dislessia, per esempio. È vero che nella maggior parte dei casi compaiono in modo associato, ma non fanno riferimento alla stessa area funzionale del cervello, quindi un soggetto può essere disgrafico ma non dislessico, può essere dislessico o viceversa, un soggetto che legge male potrebbe anche non avere problemi di scrittura. Noi concentriamoci sulla dislessia. Dislessia, perché questo è lo stimolo dei nostri ascoltatori. Allora, in genere è vero che nella maggior parte dei casi i dislessici presentano anche difficoltà nella scrittura, prevalentemente disortografia, che significa fare errori di ortografia, per intenderci non mettere le H dove ci andrebbero, sbagliare a tradurre qualche fonema in segno grafico, per esempio scrivere per B scrivere P o per C scrivere G, e infine non so, per esempio le classiche doppie, per intendersi. Ecco, questa è la disortografia, cioè gli errori ortografici che sono molto frequenti nel dislessico. Ora, quando il dislessico deve impegnarsi per scrivere correttamente, perché altrimenti la scuola ovviamente giudica come errore l'errore di ortografia, nella maggior parte dei casi non può contemporaneamente occuparsi anche dell'aspetto che è stato definito esecutivo della scrittura, e quindi per esempio il dislessico scrive molto più correttamente quando usa lo stampatello maiuscolo rispetto al corsivo, perché può occuparsi di meno dell'aspetto esecutivo della scrittura. Questo scatena sempre nella scuola tutta una serie di reazioni da parte degli insegnanti. Allora, è chiaro che bisogna distinguere, perché oggi sentivo dire l'aspetto emozionale della scrittura, ma l'aspetto emozionale dello scrivere bene subentra quando uno è veramente padrone di un'abilità, ma se a causa di qualche anomalia del sistema neurale, che è stato più volte citato stamattina, cioè le aree, ci sono alcune aree del cervello nei dislessici, nei disortografici e nei discalculici che non funzionano in modo, diciamo, adeguato, non sono lesioni ma sono anomalie funzionali. Se un soggetto ha un'anomalia funzionale, per esempio nella deambulazione, non possiamo chiedergli con tanta facilità di correggerlo, lo correggerà in palestra, poi quando bisogna camminare per la strada evitando gli ostacoli e quindi ponendo l'attenzione in altre direzioni, ovviamente riassumerà un'andatura scorretta. Questo è chiaro, ma quindi tornando al tema scrittura o tastiera, ci chiedono gli ascoltatori, nel caso del dislessico lei ci ha confermato che non dovendo concentrarsi sull'aspetto tecnico della scrittura è agevolato quando scrive in stampatello, quindi è meglio andare nella direzione di un supporto tecnico come una tastiera o un computer? Certamente, certamente. Certamente, in questo caso non solo, sì, non solo, ma così come è bene usare una scarpa ortopedica per camminare bene, scusi. Cioè, no, ma ce lo chiedono i genitori, perché alcuni sostengono che gli insegnanti non hanno un parere comune su questo e quindi sono un po' disorientati questi genitori nel capire cosa devono fare con questi ragazzi. Senta, è evidente anche che per i dislessici bisogna sempre considerare caso per caso, perché ci sono, come ho detto prima, dislessici che non hanno problemi di scrittura. Quindi dire tucur, il dislessico, al dislessico do la tastiera, significa delle volte così semplificare un processo, banalizzare. Professor Stella, grazie mille per questa finestra che abbiamo aperto su un universo in crescita, stando ai vostri messaggi, e che preoccupa molte persone. Il messaggio sul segno grafico come giacimento di significati, molto bello, lo rivendica Paolo da Biella. Ci sono moltissimi di voi che parlano di scrittura come tecnologia universitaria e rivoluzionaria. Gli antichi comunque ne avevano la stessa diffidenza che noi oggi abbiamo verso la scrittura telematica, perché abbiamo diffidenza verso la scrittura telematica, non mi sembra, anzi ci stiamo prendendo in esame questo filone pedagogico che sta avanzando in Nord America, che dice attenzione, meglio utilizzare il digitale e basta, abbandoniamo questi retaggi del passato come la scrittura a penna e la scrittura a mano. Questo getterebbe nel lutto la maggior parte degli ascoltatori che ci stanno seguendo, perché si scrive in corsivo, si scrive molto e tanti dicono certo non riceviamo più lettere, ma quando devo rilassarmi mi metto a scrivere, dopo una giornata di lavoro passata al computer mi metto a scrivere a mano. Professor Barbanti ha sentito diversi stimoli nel corso di questa trasmissione e ci sembra di capire che non ci sia nemmeno bisogno di spezzare una lancia, una penna, quello che vuole a favore della scrittura, perché sono moltissimi che addirittura invocano il ripristino della materia elementare, la materia di bella scrittura. Lei cosa ne pensa, da neurologo? Intanto penso che si possa concludere questo match dicendo che dal digitale, che digitale contro scrittura vince l'impronta digitale, cioè la scrittura che, come diceva una delle esperte, è il nostro tratto discriminativo inalienabile e inconfondibile. Da neurologo penso anche che, mi vorrei riallacciare a quello che ha detto Francesco sulla depressione, che la scrittura dimostra esecutivamente tutta la sua necessità e complessità. Un soggetto depresso può far fatica a scrivere non solo perché non ha idee, in questa sorta di impoverimento affettivo che c'è in quel momento, ma anche perché scrivere richiede una pianificazione e un'esecuzione attenta del gesto, controllata dal lobo frontale, e il lobo frontale nei soggetti depressi tende ad andare in una condizione di relativo stand-by. Poi, scrivendo, noi attiviamo la memoria di lavoro, scrivendo a mano si intende, scriviamo più lentamente che a macchina, come ti dicevo un tempo oggi al computer, e abbiamo più tempo per pensare. Quindi, ovviamente, si tratta di due realtà non intercambiabili, non vince l'una sull'altra, ma è evidente che si tratta di una necessità e che sotto il profilo puramente neurologico la scrittura è in grado di comunicarci moltissimo sull'efficienza cognitiva, esecutiva, motoria e anche affettiva, dicevamo appunto depressiva del soggetto. Per non parlare degli ebook, ma questa è un'altra storia. Ebook che possono essere definiti il degno sostituto del libro, cioè quando si legge un ebook o si legge un libro cartaceo, dal punto di vista neurologico, approfittiamo della sua presenza, attiviamo le stesse aree? Ma per carità di Dio, ma non diciamo, ecco, non usiamo aggettivi. Non è assolutamente vero, basta semplicemente dire che se un soggetto soffre di insonnia e vuole conciliare il sonno con l'ebook, ha preso tutti i biglietti alla lotteria dell'insonnia, perché punta un fascio di luce nella faccia. Dove stanno tutti i canali sensoriali che taggano l'informazione per farcela memorizzare meglio? L'odore della pagina, il libro nuovo, il libro vecchio, la porosità della pagina. Tutte queste cose non sono romanticherie. Distinguiamo bene, l'informazione è un conto, e io posso essere informato con un telegramma o anche con un risponditore automatico come quelli terribili che ci rispondono quando magari chiamiamo qualche ente, istituzione, certo. Diverso invece è la lettura attraverso una modalità multisensoriale. L'ebook è solo un senso. Cioè, da una parte c'è l'informazione, dall'altra l'espressione, ci è sembrato di capire. L'informare e il narrare. 7.000 anni di storia in cui si è usato questo strumento, non lo equipara a un fax, professor Barbanti? No, nella maniera più assoluta no. C'è da dire poi anche la capacità, pensiamo uno studente, io mi stiamo concludendo, professore, sintetico. Una parola molto semplice: sfido il cultore dell'ebook a studiare sull'ebook e sottolineare sull'ebook, e soprattutto ricordare bene, come magari facendo la stessa cosa, ma in maniera più tradizionale, su un libro cartaceo. Grazie mille, ci scusiamo con tutti quelli che vorrebbero parlare. Purtroppo il tempo è tiranno, per usare un cliché. In redazione hanno lavorato con noi per la confezione di questa puntata gli altri giornalisti: Barbara Bianchi, Laura Faggin, Lucia Rose Tolve, che devo ringraziare tantissimo, e in regia Pietro Lacorte. Io sono Irene Zerbini e vi do appuntamento con Spunti di Vista a domani mattina alle 8:10.